Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Il matrimonio di Rosa al cinema da giovedì 16 settembre 2021. Ben trovato. Ciao, ben trovati, grazie. Come lo racconteresti in breve? La storia di questa Rosa, appunto, che ha quasi 45 anni e ad un certo punto nella sua vita si rende conto di non aver mai fatto niente per se stessa, nel senso che comunque è nata da una famiglia che le vuole bene, da una figlia, da un fratello, una sorella, un padre molto apprensivo e da un fidanzato che la rincorre spesso. Però ha l'impressione che tutti quanti la diano un po' troppo per scontata. Se c'è un problema chiamano lei, se sul lavoro qualcuno manca si affidano sempre a lei, quindi lei è, diciamo, un po' la ruota di scorta di tutti quanti, quella data un po' troppo per scontata, e fa questo per tutta la sua vita, ma senza mai ritagliarsi degli spazi o dei percorsi per realizzare dei sogni che la potessero rendere veramente felice. E quindi un giorno, un po' piena di tutto questo, decide di dare una svolta improvvisa alla propria vita. E quindi che cosa fa? Si licenzia, cambia casa, si trasferisce e prova a realizzare quello che sarebbe il suo sogno, ovvero quello di riaprire la vecchia sartoria della madre, che appunto realizzava abiti da sposa. E mentre lei si ritrova in questo paesino, in questo negozio che deve essere un po' rimesso a nuovo perché è rimasto chiuso per tanti anni, decide di promettersi di rispettarsi, di amarsi, e quindi decide di organizzare questo matrimonio che inizialmente doveva essere una cosa molto intima tra lei, la figlia, il fratello, la sorella e il padre, questo matrimonio con se stessa, per promettersi di rispettarsi, di amarsi, di ascoltarsi e di non mettersi sempre dietro gli altri. Il problema è che poi però questa situazione le sfuggirà di mano, perché i fratelli, la sorella e tutti quanti si metteranno di mezzo e questo matrimonio da intimo diventerà l'evento che coinvolgerà parenti da tutto il paese, e ovviamente tutti si aspettano un matrimonio normale, un matrimonio tra uno sposo e una sposa, e invece si ritroveranno davanti ad una scena abbastanza surreale e imprevista. Cosa vi ha convinto di questo lavoro? È un film spagnolo innanzitutto, che è stato un grandissimo successo in Spagna alla riapertura dei cinema post-Covid. È stato un grandissimo successo ed è stato addirittura nominato per 8 premi Goya, che sono gli Oscar spagnoli. È un film che secondo noi è perfetto per questo periodo, è solare, è divertente, è spensierato e comunque di base mantiene un'idea molto importante, cioè quella di volersi bene, di rispettare se stessi. È un film molto femminista, perché non racconta la storia di una donna particolarmente sfortunata, anzi è una donna comunque normale, una donna comune che ha i suoi problemi ma anche le sue soddisfazioni, semplicemente una donna che ha voglia di rimettersi in gioco, di prendere in mano la sua vita e di non lasciarsi sopraffare dai problemi degli altri. Quindi diciamo che c'era questo connubio tra la leggerezza del tema ma anche un messaggio profondo e importante di base, che secondo noi si sposava benissimo per questo periodo dove giustamente il pubblico ha voglia anche magari di impegnarsi, ma comunque con leggerezza, ecco, quindi tornare in sala con il sorriso e senza comunque tralasciare magari delle riflessioni importanti su alcuni temi. Di questa regista ricordo distribuito in Italia Ti do i miei occhi. Esatto, è il suo film precedente che era arrivato in Italia. È una regista che è molto prolifica, nel senso che ha una filmografia molto densa, e in Italia appunto era conosciuta grazie a questo suo film qua, e questo sarà il suo secondo film che noi porteremo in Italia, dove nel cast figura anche Candela Peña, che è una bravissima attrice spagnola che aveva già lavorato in passato con Almodóvar nel suo film Tutto su mia madre. Quindi sai, noi siamo sempre contenti di portare queste registe o registi da tutto il mondo e farli conoscere, far scoprire anche non solo i film che noi portiamo, ma magari anche i precedenti che forse non hanno avuto i riconoscimenti nel nostro paese. Ha avuto anche un suo giro internazionale? dopo la presentazione spagnola, qua in Italia è stato anche presentato al Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano. E poi, come ti dicevo, appunto, il riconoscimento più importante sono state le 8 nomination ai premi Goya, dove poi è stata premiata un'attrice non protagonista che interpreta la sorella, e anche la canzone originale che fa la colonna sonora del film. In quante sale? Usciremo inizialmente in una quarantina di sale sparse in tutta Italia, che insomma ci sembra un ottimo modo per presentare il film, anche vista un po' la sua natura da cinema, da film comunque di sé e ricercato, e siamo fiduciosi che verrà accolto con entusiasmo dal pubblico e sicuramente il passaparola sarà buono. Il matrimonio di Rosa al cinema da giovedì 16 settembre 2021. Saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. Grazie a presto. A voi. A presto, ciao, grazie. Con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures, che distribuisce il film Il cieco che non voleva vedere Titanic, al cinema da martedì 14 settembre 2021. Ben trovato. Ben trovato Federico, buongiorno a tutti. Lo raccontiamo brevemente? Molto molto volentieri. Il cieco che non voleva vedere Titanic è un film che ha avuto un bellissimo premio, che è il riconoscimento del pubblico al Festival di Venezia, era in Orizzonti Extra, in questa sezione del Festival di Venezia, e è il film più chiacchierato del festival, ne hanno parlato tutti. È un film che ha sorpreso e come tale, come distribuzione, abbiamo deciso di metterlo subito a disposizione per la sua visione a tutto il pubblico italiano. Il regista è un personaggio favoloso, è magnifico, si chiama Temu Nicchi, assolutamente fuori dagli schemi. Ho avuto già la fortuna di lavorarci in altre due occasioni con i suoi due precedenti film, che si chiamano Love Milla ed Euthanizer, entrambi film decisamente fuori dagli schemi, che hanno avuto un po' meno fortuna, ecco, nel percorso di visione al pubblico, ma entrambi sono disponibili, dopo che avremo visto Il cieco che non voleva vedere Titanic, anch'essi sulla piattaforma iwonderful.com. Il cieco che non voleva vedere Titanic, nello specifico, da dove nasce? Nasce da un'amicizia molto forte tra, appunto, Temu Nicchi, regista, e uno suo caro amico che ha qualche problemino di disabilità, diciamo, non ha la vista, è cieco e allo stesso tempo è paraplegico. Per cui si sono incontrati, si sono trovati, hanno fatto un film assieme che racconta proprio queste difficoltà, racconta proprio questo mondo. Il nostro protagonista in pratica vive in una sedia a rotelle, in una casa che è circondata da oggetti di quando ancora aveva la vista, e è innamorato, ha una ragazza che sente continuamente al telefono. Lui si chiama Jaakko, lei si chiama Sirpa, sono due finlandesi dolcissimi. Non si sono mai incontrati nella vita vera, per cui un giorno, quando purtroppo Jaakko viene a sapere di notizie non buone sulla salute della sua ragazza, decide di andarla a trovare. E qui parte il film, perché un paraplegico non vedente deve prendere un taxi, deve prendere un autobus, deve prendere un treno per raggiungere la sua amata, e si dirà: ma che sarà mai? Mi farò aiutare da qualche sconosciuto nelle stazioni. E parte un'avventura incredibile. Nel fare questo, Temu Nicchi ha deciso di incollarsi con la telecamera sul corpo e sul volto e sulle mani di Jaakko, trovando soluzioni tristiche molto interessanti, molto divertenti, perché poi ci permette di immergere proprio nella vita di Jaakko e nel suo affrontare la vita quotidiana. Sono delle immagini molto sfumate e allo stesso tempo molto godibili e divertenti. Non racconto il resto, se ci arriva, se non ci arriva, cosa gli succede, perché è la parte più bella del film e la lascio agli ascoltatori. Di questa regia cos'altro sappiamo? Temu Nicchi è figlio di un allevatore di maiali. È una persona assolutamente squisita, è un regista autodidatta, e da autodidatta ha già prodotto diversi film e opere che hanno già vinto premi. Ne ho citati due in precedenza, che sono i film che come i Wonder Pictures abbiamo portato in Italia, ma ha fatto anche tantissimi cortometraggi e anche serie TV. Ho davanti a me il pressbook che racconta meglio di me il personaggio e vi leggo questo. Lo stile di Nicky è meglio descritto come una satira politica dell'umanità, ben voluta ma impenitente. Ecco, quello è ciò di cui c'è bisogno sempre più oggi, rimettere l'uomo al centro, e lo fa con una eleganza ma con una satira assolutamente geniali e fantastici. Mi invito a scoprirlo. In quante sale? Ecco, questa è una bellissima domanda, perché quella della uscita nelle sale è stata una nostra nuova trovata, nel senso che, come sappiamo, il mondo della distribuzione digitale e nelle sale è in continua evoluzione. Ci sono grandi player che passano allo streaming, noi abbiamo voluto tenere assolutamente forte la concentrazione sulle sale, per cui il film si trova su iwonderful.com e al contempo in una quindicina di sale italiane. La troverete da Milano al Cinema Beltrade, all'antico Palazzo del Cinema, così come a Bologna, al Cinema Jolly, a Firenze, ma anche a Messina, anche a Bari. Sarà una diffusione lenta, ma raggiungerà la gran parte dell'Italia. Il cieco che non voleva vedere Titanic al cinema da martedì 14 settembre 2021, saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli di iWonder Pictures che lo distribuisce. A presto! A presto Federico, grazie come sempre. Con Francesco Bizzarri, fondatore e presidente della settima edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo a Milano dal 16 al 19 settembre 2021. Ben trovato. Grazie, grazie di avermi invitato. Per chi non lo conoscesse, spieghiamo cos'è. Beh, il festival è uno dei primi festival di cinema documentario in Italia, è stato lanciato nel 2015 e si occupa di cinema documentario, prevalentemente lungometraggi, documentari artistici, autoriali, che raccontano la storia di oggi e il documentario contemporaneo, quello che succede oggi in Italia, quello che succede nel mondo, quindi grandi temi universali come la tecnologia, l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la difesa dei diritti civili e delle minoranze, il giornalismo indipendente, non di regime, e poi anche il cinema italiano, il cinema delle regioni, del territorio, storie di cultura e di territorio che ci arrivano un po' dalle scuole di cinema italiane di tutte le regioni e da registi indipendenti importanti che raccontano appunto storie dell'Italia. I criteri di scelta delle opere per tematica e valore dell'opera? Sicuramente il valore dell'opera, cioè l'opera deve essere originale e ci deve essere un minimo di narrazione, di contributo autoriale e artistico. E poi i temi possono essere più svariati. Quest'anno abbiamo lanciato un tema che ovviamente è molto ampio, anche per permettere a molti di poter mandare i loro documentari e poi poterli selezionare, come abbiamo fatto per presentarli appunto da giovedì a domenica qui a Milano. Però il tema di quest'anno è smascherare il presente per costruire un futuro migliore. Direi che il tema parla da sé, cerchiamo di togliere i veli di ipocrisia da tutte quelle storie che ci riguardano e che ci toccano tutti i giorni, che vengono raccontate in un modo diverso da come vogliamo raccontarle noi, e quindi al di fuori dell'originalità autoriale dell'opera vorremmo anche che il nostro festival fosse un po' un presidio di democrazia. Quante sono le opere presenti quest'anno? Quest'anno abbiamo più opere degli anni precedenti, delle edizioni precedenti, abbiamo 38 opere, di cui 12 internazionali e le altre invece che vengono dal territorio italiano, dalla produzione italiana. E questo perché, avendo comunque sempre un'attenzione a tutto quello che succede nel mondo e facendo vedere le grandi opere, sempre in anteprima italiana, che sono uscite nei grandi festival tipo Tribeca, tipo Sundance, tipo Toronto, eccetera, comunque la nostra missione è quella di promuovere il documentario italiano. E quindi diamo più spazio a tutte le opere originali in prima visione mondiale o quantomeno italiana delle opere italiane. È previsto l'incontro con autori e autrici? Sì, è previsto un incontro, abbiamo invitato, ci raggiunge da Los Angeles Nick Broomfield, e Nick Broomfield è un maestro del genere a cui si è ispirato anche Michael Moore, che è un nome che tutti conoscono. Nick Broomfield è un regista di 70 anni che ha diretto i famosi Whitney sulla cantante Whitney Houston, Leonard e Marianne su Leonard Cohen e Marianne Faithfull, Kevin, Kurt Cobain e Courtney Love, e presenta da noi in prima, viene da Los Angeles apposta, e il suo ultimo film appena uscito nelle sale in Inghilterra, che si chiama Last Man Standing, che invece è un'analisi del rap. È un film che racconta un po' la storia del rap, ma è anche investigativo, la storia del rap americano, e scopre delle corruzioni della polizia di Los Angeles, questi omicidi di questi due cantanti rap che sono Biggie Small e Tupac Shakur, che sono i più famosi forse i cantanti rap degli anni 90, ambedue uccisi, e lui ne segue tutta la storia fino all'uccisione e la riprende ora, dando anche delle accuse molto circostanziate a una parte della polizia di Los Angeles, quindi è estremamente interessante su due fili di racconto, ecco, quello musicale e quello investigativo. Gli orari e i luoghi? Il festival si svolge a Milano, al Teatro Lidda, in Corso Magenta, da giovedì pomeriggio fino a domenica sera, quindi tutti i pomeriggi e le sere, e si svolge anche al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, sempre da giovedì pomeriggio fino a domenica sera. Quindi tutti i pomeriggi di giovedì, venerdì, sabato e domenica e le serate in queste sale del Teatro Lidda e del Museo della Scienza a Milano. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Basta andare sul sito www.visionidalmondo.it, dove abbiamo cercato di mettere in modo il più semplice possibile il programma e tutti i modi per collegarsi. Ecco, approfitto per dire che noi quest'anno raddoppiamo, quindi oltre che essere in presenza avremo anche tutti gli eventi in diretta online streaming, e tutti i link sono disponibili sul sito www.visionalmondo.it, e inoltre chi non sarà a Milano può vederlo sulla piattaforma My Movies Visioni dal Mondo, di nuovo sul sito www.visionalmondo.it, sotto Festival Online c'è cioè la piattaforma, e uno si può iscrivere alla piattaforma e vedere tutti i film. Ecco, l'ultimissima cosa, a Milano, al Teatro Lite, al Museo della Scienza, proprio per promuovere il ritorno del pubblico in presenza, l'entrata è gratuita, fine esaurimento posti, questo purtroppo è il limite delle regole anti-Covid, però insomma è entrata gratuita, fine esaurimento posti, in ambedue le sale. Settima edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo a Milano dal 16 al 19 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al fondatore e presidente del Festival, Francesco Bizzarri. A presto! Grazie a voi, a presto, vi aspetto tutti a Milano. Con Pier Francesco Aiello per presentare il film Il viaggio del principe al cinema da giovedì 16 settembre 2021. Ben trovato. Ciao Federico, ciao, buonasera a te. Raccontaci. Allora, è un film d'animazione, è una favola, diciamo. È un film di regia di Jean-François Lagonier e Xavier Picard. Jean-François Lagonier è un grande regista di animazione. Adesso è abbastanza anziano, ha 85 anni ed è stato aiutato da Xavier Picard. È una favola ambientata nel XIX secolo a Parigi ed è una favola che rappresenta in realtà tutto quello che oggi accade, perché come se non fosse cambiato niente. Xavier e Jean-François avevano già girato un film diversi anni fa che si chiamava 20 anni dopo Scimmie. Si sono ispirati, ma è un film completamente nuovo. Il viaggio del principe è la storia di un vecchio principe che si arena in una spiaggia di un paese sconosciuto, e c'è un giovane, si chiama Tom, che sono i due protagonisti, lo scopre e lo porta a casa, dove vive in un mondo di scienziati, di artisti, e quindi questo principe si trova catapultato in questo ambiente di intellettuali, di scienziati che studiano un po' il mondo nell'ambito del periodo del XIX secolo. Era chiaramente tutto un periodo completamente diverso da oggi, perché si facevano ricerche, stava per nascere l'industria, c'erano tanti mondi sconosciuti in giro per il mondo, ancora si cercavano nuove popolazioni. Questo principe viene catapultato in questo nuovo mondo e proviene da una cultura che è una cultura completamente diversa. E tutti sono in sembianze come delle scimmie. Tom, il giovane ragazzo, è figlio appunto di due scienziati, è appassionato di natura e quindi questo film viene rappresentato un po' quello che è il discorso dell'immigrazione e il discorso della natura. Infatti in questo senso è molto attuale perché in realtà si ripropone la differenza dell'altro, cioè una persona che arriva in un mondo diverso e che come cambia l'accoglienza. A quell'epoca, quando si andavano a scoprire nuovi mondi, gli indigeni, insomma, che venivano presi, erano considerati un po' come degli animali, no? Venivano messi un po' quasi in gabbia, venivano portati magari in Occidente, venivano studiati. Questo giovane gli mostra il mondo in cui vive in questo momento. E questo vecchio principe osserva questo mondo dove tutti non escono, tutti si chiudono in casa con le chiavi, non riesce a capire perché è un mondo completamente strano per lui. Jean-François Lagonier, diciamo che ha lavorato sempre con una tecnica di animazione che ha lavorato un po' su tutto, ha lavorato sull'acquarello, sulla tempera, sul gesso, sull'inchiostro, quindi è uno di grande esperienza, infatti le immagini sono veramente molto poetiche, molto belle. Per lui il film d'animazione è un mezzo espressivo assolutamente straordinario, perché riesce a riunire molte cose e che forse secondo lui, diciamo, la scrittura, il mimo, la musica, la pittura, sono tutti aspetti che nell'animazione lui riesce a inserire. E in questo senso lui per questo film si è ispirato a dei libri che erano appunto Il pianeta delle scimmie di Schnaffer e poi anche un libro che erano Lettere persiane di Montesquieu. E da lì lui parte per vedere questa visione di questo nuovo mondo. Secondo lui era necessario attribuire a questo nuovo mondo un'epoca e quindi lui l'ha ambientata nel XIX secolo. È un'epoca dove mai nella storia dell'uomo si è sentito così superiore alla natura, perché secondo Lagonier l'evoluzione del mondo in quel periodo del XIX secolo forse è il più grosso cambiamento dell'evoluzione dell'uomo. È il regno del progresso, delle scoperte industriali, dell'elettricità, delle mostre coloniali dove i selvaggi venivano appunto presentati in gabbie e cose varie. Quindi parla anche di questo principe che viene da un popolo dimenticato, da un naufragio, però il discorso del film è basato su quello che oggi noi stiamo in questo momento proprio parlando, cioè dell'immigrazione, dell'altro, della visione dell'altro, dello sconosciuto che arriva, della natura. È un film chiaramente che è adattissimo ai bambini, anche accompagnato dagli adulti, ed è un viaggio straordinario perché insomma un bambino si può raffigurare in questo Tom, no? Di questo ragazzo che ha un'energia vitale pazzesca e che è straordinariamente incuriosito da questo personaggio che viene da un mondo lontano, no? Quindi si fa raccontare da dove viene e più che altro gli fa anche da testimone di questo mondo che lui sta vivendo. Siamo riusciti ad avere 71 sale, il che per noi è importante perché chiaramente esce chiaramente in tutta Italia, sta avendo una distribuzione abbastanza importante. Questo è un film chiaramente molto autoriale, ma nello stesso tempo anche molto potente, è un film visivamente molto bello. Il film Il viaggio del principe al cinema da giovedì 16 settembre 2021, un saluto e un ringraziamento a Pier Francesco Aiello che lo distribuisce. Ringrazio a te Federico, tante cose. Ciao, grazie. Ciao. Con Rafael Maniglia, uno dei curatori della 35esima edizione del Mix Festival a Milano e online dal 16 al 19 settembre 2021. Ben trovato! Ciao, buongiorno! Ciao Federico, ciao all'ascoltatore e all'ascoltatrice, buongiorno, eccomi qua. Lo raccontiamo a chi non lo conoscesse? È un piacere essere qua a raccontare il festival di quest'anno. Compiamo 35 anni del Festival del Cinema e cultura LGBTQ+ a Milano, da qualche anno introdotti nella famiglia del Mix, quindi Mix Festival, di nuovo qua quest'anno resilienti e forti come mai, al piccolo Teatro Streller, Teatro Studio Melato e al Palazzo Reale, nuova location del Mix che inauguriamo quest'anno. Come si caratterizza l'edizione 2021? Questo 2021 abbiamo un tema che è il Love Matters, che raggruppa un po' tutte le tematiche legate al Black Lives Matter, Trans Lives Matter, Latin Lives Matter, Gays, Lesbian, quindi cercando di abbracciare tutte le varianti, tutte le tipologie di lotte contro la discriminazione a favore dell'uguaglianza dei diritti. Quante sono nel complesso le opere presentate? 60-65 opere tra documentari, lungometraggi di fiction e cortometraggi, con una programmazione appunto divisa in tre sale diverse e anche su Nexo Plus, una parte della programmazione che va su streaming in tutta Italia. Tre sale per tre diverse sezioni? Tre sale per tre diverse sezioni, in realtà sono mescolate, no? Quindi apriamo il festival giovedì 16 al piccolo e poi dal 17 al 19 in tutte le tre sale. Sono previsti anche autori e autrici, incontro in presenza? Certo, ci sono tantissimi autori e autrici che vengono a presentare i loro film, ci sono tre diversi gruppi di giurati che selezioneranno il miglior lungometraggio di fiction, il miglior documentario e il miglior cortometraggio e anche la possibilità di dare il premio del pubblico al lungometraggio di fiction tramite l'app del Nix. Come saranno strutturate le giornate? Partiamo dalla prima giornata che abbiamo una cerimonia di apertura e praticamente tutte le proiezioni dei film vengono precedute da esibizioni, da concerti, DJ set, performance di danza. Per esempio all'apertura giovedì abbiamo una performance di due ballerini, un ballerino e una ballerina del Teatro della Scala, poi abbiamo la presentazione del film e negli altri giorni si ripete un po' questa formula qua. Diciamo, tutto quello che succedeva all'esterno per questa edizione succede all'interno delle sale. Quindi ogni proiezione di film è anche un evento. Sabato, per esempio, abbiamo una programmazione dedicata al clubbing, quindi con la presentazione di un cortometraggio alla discoteca prima del film, la presentazione performance del gruppo Dramma Milano e anche domenica succede la stessa cosa. Abbiamo anche incontri, dibattiti con diversi temi, abbiamo lezioni di yoga al mattino del sabato e domenica al Teatro Studio Melato. Quindi, insomma, è un mix di programmazione, non solo film, ma un festival multidisciplinare e multiculturale. La programmazione online è identica a quella in presenza? No, è una programmazione un po' diversa, è una programmazione che è stata curata per il pubblico di tutta Italia, quindi c'è il programma completo del concorso cortometraggi e alcuni documentari e lungometraggi di fiction ad hoc per la programmazione online. Per tutte le informazioni ci dai riferimenti web? mixfestival.eu, questo è il nostro sito, poi ci sono le pagine Instagram e Facebook dove possono anche lì trovare tutte le informazioni riguardo al festival e anche farci delle domande. Se ci sono dei dubbi o informazioni che avete bisogno, basta scriverci sia sulla pagina Facebook che la pagina Instagram. Intanto il sito è www.mixfestival.eu. 35esima edizione del Mix Festival a Milano e online dal 16 al 19 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Rafael Maniglia. A presto! Grazie Federico, grazie. Un abbraccio, a presto. Ci vediamo al Mix. Con Gisella Calabrese, direttrice artistica della 10ª edizione di Visioni Corte, a Gaeta dal 18 al 25 settembre 2021. Ben trovata. Ciao, ciao Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Raccontiamo cos'è Visioni Corte. È un festival del cinema internazionale specializzato nel cortometraggio, nasce nel 2012, quindi questo per noi è un anno speciale perché è il 10º compleanno del festival e quindi oltre a essere un'edizione insomma scadenzata, per noi è anche un'importante piccola tappa insomma raggiunta, che è quella della doppia cifra. È rivolto a tutti i registi, giovani o meno giovani, emergenti o meno, di tutte le parti del mondo, quindi riceviamo ogni anno migliaia di cortometraggi dei 5 continenti. emittenti, è suddiviso in categorie, abbiamo categorie competitive e non competitive. Per le categorie competitive abbiamo la fiction italiana, quella internazionale, il documentario, l'animazione, e da quest'anno abbiamo introdotto come competitiva anche la categoria che abbiamo chiamato Kiddos, che è dedicata proprio ai bambini, adolescenti che sono i protagonisti di queste storie. Mentre come sezioni non competitive abbiamo Meridiani, che è un focus che ogni anno dedichiamo a film provenienti da un unico paese. L'anno scorso è stata la volta degli Stati Uniti, quest'anno la volta dell'Iran, è una sezione nuova infatti come vedi, e poi Germogli di Cinema, che è una sezione sempre non competitiva dove riscontriamo insomma film particolari per tematiche, per il modo in cui sono stati trattati, determinate opere prime, insomma, per dare una estrema varietà di quello che è il panorama internazionale cinematografico del cortometraggio. Quali sono i criteri di scelta delle opere? Innanzitutto deve essere un corto che sappia emozionare, che abbia una storia, quindi che abbia qualcosa da dire, per cui è importante la scrittura, la sceneggiatura, deve essere ovviamente ben girato, ben interpretato, quindi ci sono dei livelli di qualità, di confezione del prodotto che devono essere comunque molto molto alti. E poi, ripeto, lì dove ci sono queste caratteristiche rispettate, quindi la qualità, la buona storia, la buona interpretazione, deve essere anche una storia che sappia colpire in particolare, insomma, che sappia entrare nel cuore poi dello spettatore, ecco. Quante sono le opere proposte in questa edizione? Dunque, quest'anno tra poco più di 2000 corti giunti in selezione ne sono stati selezionati 106, 72 sono in competizione e i restanti sono invece nelle categorie non competitive. È previsto l'incontro anche con autori e autrici? Sì, certamente, noi ogni anno invitiamo sempre i registi finalisti a partecipare al festival, quindi saranno presenti qui personalmente a Gaeta, al cinema, durante queste serate e non solo, perché dall'anno scorso, a causa dell'edizione Covid che siamo stati obbligati a fare online per via delle restrizioni e del fatto che l'anno scorso parte dello staff, me compresa, preso il Covid proprio nel periodo del festival, abbiamo inventato questo format di visioni talk, che è appunto il collegamento con il regista che facciamo tramite internet e che mettiamo sulle nostre piattaforme, sui nostri canali, per cui lo riproponiamo anche quest'anno, quindi avremo sia i registi presenti che presenteranno appunto il loro cortometraggio in sala al pomeriggio o alla sera e lo presenteranno durante lo spazio visioni talk, e sia i registi che invece non potranno raggiungerci per motivi di distanza, di lavoro e quant'altro, e quindi lo faranno online. Quindi abbiamo questo doppio canale, per cui sì, assolutamente la presenza degli autori per noi è un valore aggiunto irrinunciabile. I luoghi e gli orari? Come sempre il festival si terrà nella bellissima cornice del Cinema Teatro Ariston tutte le sere a Gaeta, nel cuore di Gaeta, a partire dalle 20:30. Poi a partire invece dalle 17, quest'anno abbiamo inserito anche le proiezioni pomeridiane che si terranno in una seconda sala che abbiamo allestito nel prestigioso Club Nautico di Gaeta. E poi abbiamo anche un'altra bellissima location che è il Bastione della Favorita, dove abbiamo allestito la mostra fotografica dedicata a Vittorio De Sica. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web? Abbiamo il nostro sito che è www.visionicorte.it, dove si possono trovare tutte le nostre informazioni, chi siamo, cosa facciamo, le edizioni passate e ovviamente c'è tutto il programma dettagliato, e la nostra pagina Facebook Visioni Corte, il nostro account Instagram che è sempre Visioni Corte e poi anche il nostro canale YouTube che è sempre Visioni Corte. Quindi insomma potete raggiungerci in tanti modi diversi, ma soprattutto mi auguro che possiate raggiungerci di persona a Gaeta. 10ª edizione di Visioni Corte a Gaeta dal 18 al 25 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gisella Calabrese. Grazie a voi tutti. A presto. Con Ferdinando Amato, regista del documentario La Pancia Verde. Ben trovato. Ciao, grazie a te. E chi ci ascolta, raccontiamo la storia di questo film, di cosa si parla? La Pancia Verde è un documentario che analizza, sottotitolo appunto, che è auto-organizzarsi in tempi di emergenza. che affronta il tema della, chiamiamolo, approvvigionamento alimentare durante la pandemia in Umbria, parlando soprattutto delle tipologie di mercato, tra virgolette, chiamiamoli alternativi, no? Quindi gruppi di acquisto solidale, i mercati di prossimità, e partendo da ciò passa per tutte quelle forme di solidarietà che si sono attivate, sono associazionismo, il mutualismo, l'aiuto in generale, che durante la pandemia è venuto fuori e che ha aiutato a contrastare un po' da una parte una carenza istituzionale per forza di cose e dall'altra le difficoltà di quanti sono stati messi in ginocchio, no? Per le difficoltà della pandemia, dalla perdita del lavoro, dal dover stare a casa e dalle chiusure forzate. Com'è nata l'idea? Non è casuale, innanzitutto al di là di una voglia, forse anche una necessità di voler raccontare quello che succedeva anche in una regione piccola come l'Umbria, in cui invece queste realtà erano, sono venute fuori quasi con prepotenza, non sono venute fuori molte e tante. Io e Giulia, la ragazza che ha scritto il documentario insieme a me, non siamo lontani da questo ambiente, nel senso siamo consumatori già di gruppi d'acquisto, ci riforniamo spesso nei mercatini, e in più abbiamo una leggenda, come dire, militanza sul mutualismo, no? Quindi siamo sempre occupati, abbiamo seguito associazioni come Perugia Solidale, è stata una delle più forti in Umbria, e che più è venuta fuori durante la pandemia. Inoltre io e Giulia lavoriamo per Altro Cioccolato, che è un'iniziativa che ogni anno organizza un festival a Città di Castello, da anni è stato itinerante per l'Umbria, che nasce dalla volontà di Umbria Ecosolidale, che sarebbero le botteghe del commercio ecubro. Nel 2020 la pandemia ha impedito ovviamente la manifestazione e ci siamo chiesti con Giulia che fare, no? Se era il caso di rimanere anche noi da parte con le mani in mano, invece, quindi abbiamo deciso che di spostare, di trasformare quello che facevamo con Altro Cioccolato nella realizzazione di questo documentario e quindi nella ricerca e la documentazione di quanto avveniva, che poi appunto si è materializzato nel documentario. Quindi questa è l'idea. Infatti il documentario, per chi non lo sapesse, è prodotto da Altro Cioccolato e un Devo Solidare, che sono stati i produttori del film. Ti sei mosso nell'Umbria, dove c'è una realtà piuttosto vivace di varie strutture che si muovono in tal senso. Sì, io sono siciliano ma vivo in Umbria ormai da diversi anni. Non è tanto l'idea di voler restare chiusi al territorio umbro, in realtà il documentario è stato prodotto e realizzato durante la pandemia, per cui era già difficile raggiungere alcuni paesi con le restrizioni, più difficile sarebbe stato già uscire dalla regione. Ma soprattutto era il fatto che volevamo essere più o meno sicuri di quanto stavamo dicendo, per cui abbiamo deciso di analizzare un territorio che conoscevamo già bene, anche perché le realtà che abbiamo incontrato non sono poche, anzi il documentario sicuramente non ha l'ambizione di esaurire il territorio, no? Noi sicuramente non siamo riusciti a raccontarle tutte, quindi l'idea di rimanere in Umbria era forse il modo più semplice e anche più diretto per fare un racconto quanto più vicino alla realtà, per evitare di sbagliare, per non allontanarsi di troppo e non parlare di questioni più grandi di noi e di realtà troppo lontane da noi. Quindi sì, questo è lo spirito che ci ha portato a scegliere l'Umbria, per forza di cose perché è il territorio in cui vivevamo e dall'altra perché è quello che conosciamo meglio e non siamo riusciti a farlo. Cioè sì, probabilmente ci siamo riusciti come contenuto, ma ovviamente ci dispiace per tutte quelle realtà che sono rimaste fuori. Noi abbiamo fatto una cernia di quelle che sono e sono già tante. Per cui per questo l'Umbria e nel Germanico, per dargli un vincolo geografico a quanto volevamo raccontare. Che impressioni ne hai ricavato da questo viaggio? Non lo so, la cosa più bella sicuramente è che nonostante noi, come ti ho detto, non eravamo nuovi al racconto, no? Sono realtà che già conosciamo, con cui eravamo già in contatto, perlomeno con alcune di queste. La cosa che più ci ha stupito, che forse è quella che ci portiamo più dietro e che ci succede spesso durante le presentazioni, ma anche già durante la fase di ricerca, è il bello di scoprirne molte altre. Cioè da una parte, come ti dicevo, c'è il rammarico, se si può dire così, di non aver potuto raccontare tutto perché molte sono rimaste fuori. Dall'altra è proprio bello scoprirle. Perché ti fa pensare che è bello pensare che ce ne siano altre, che non finisce qui, e quindi c'è veramente una prospettiva molto grande, c'è una speranza che queste forme alternative di commercio restino in vita, che ce la possono fare, che è possibile che esistano. E scoprire questo piccolo universo che non è chiuso lì, ma è più o meno in espansione, è quello che ci dà più soddisfazione, soprattutto per averlo potuto raccontare tramite il documentario. Che forma di circuitazione stai dando a questo lavoro? Il documentario è prodotto da Altro Cioccolato e un Umbria Solidale, quindi rimaniamo quasi nell'autodistribuzione, chiamiamolo così. Il commercio eco, soprattutto quello umbro, porta molto in giro il documentario, quindi ci diamo molto per eventi organizzati dalle botteghe. E allo stesso tempo ci fa piacere essere contattati da molte realtà affini che sono sensibili sia al tema alimentare sia al tema del mutualismo, su cui giriamo su questi circuiti, no? Su cui ci siamo stati a Campi Aperti a Bologna, adesso andremo in altri festival simili da cui siamo stati invitati. In più ovviamente giriamo grazie ai festival, soprattutto nel vostro caso, il Teatro Politico di Raffaele Nibalda, quindi speriamo che ne arrivino altri.

sono anni che si pensava di fare questa festa della Palestina e appunto lo scorso anno il presidente della comunità, Youssef, della comunità palestinese di Roma e del Lazio, ha proposto, appunto, ha messo insieme tutte le forze con Rania, che è la vicepresidente, per appunto promuovere e iniziare a fare una festa, anche per far conoscere un altro lato, perché la Palestina purtroppo viene sempre raccontata in contrasto o viene, purtroppo se ne parla sempre giustamente della situazione di quello che succede in Palestina. Noi vogliamo raccontare quello che succede, però allo stesso tempo ricordare che la Palestina è anche tanto altro e c'è tanta cultura, quindi non è solo guerra, non c'è solo quello, ma c'è anche un'identità, un patrimonio da salvaguardare, da ricordare, perché questa è una delle nostre risorse, no? Per dire che esistiamo, ecco, la cultura. Quali sono gli orari e come saranno strutturate le quattro giornate? Noi abbiamo deciso di dividere le giornate appunto per tematiche, macro tematiche. La prima giornata iniziamo alle 17 con un'inaugurazione e domani è la giornata dedicata ai giovani, quindi ci saranno tantissimi giovani, donne, ragazze e ragazzi che hanno curato tutta la giornata. Ci sarà una scrittrice, Ala Saidi, che presenterà il suo libro, dopodiché uno spettacolo teatrale dedicato a Vittorio Arrigoni verso le 21:30. Nel corso della giornata poi si torneranno tavole rotonde con appunto interventi anche di Muna Al-Kard, che è l'attivista del quartiere Sheikh Jarrah, e quindi è dedicata completamente ai giovani, all'attivismo giovanile. La seconda giornata invece è appunto dedicata alla Palestina e appunto ai palestinesi, e infatti avremo l'onore di avere tra i nostri ospiti Mohammed Bakri, il regista e attore di fama internazionale, che appunto è famoso per il suo film Wajib, tra gli altri anche Oltre le sbarre. Quindi ci sarà lui che appunto farà una chiacchierata con noi, e poi ci sarà la proiezione del film, appunto Wajib, Cuore di un matrimonio. E quindi questa è la seconda giornata, mentre la terza giornata è dedicata alla Palestina e all'Europa. Abbiamo voluto coinvolgere soprattutto anche altri popoli, anche altre persone di popoli che sono solidali con la Palestina, perciò avremo un duo, Psychos, sono composti da una ragazza marocchina e una ragazza tunisina, che faranno combat hip hop, quindi c'è un po' un intreccio di culture e anche di generazioni. Mentre l'ultima giornata è quella dedicata alle donne, in cui appunto ci saranno anche qui tavole rotonde e infine delle proiezioni sia dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e sia ci sarà la proiezione del documentario prodotto da Un Ponte Per a cura di Francesca Zonars, che è stato girato in un campo profughi in Libano. Comunque durante le giornate poi ci saranno sempre delle mostre permanenti, spettacoli di danza, di musica, cibo, tanto cibo, e sì. Questo è il nostro festival. Ci dai anche tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Certo, allora ci trovate su Instagram, Palestine Festival, su Facebook come Palestine Festival, e abbiamo anche un sito, palestinefestival.it. Poi se ci volete scrivere alla mail è palestine.festival@gmail.com. Seconda edizione di Palestine, Festival della Palestina a Roma, al Circolo Arci Concerto Marchesi, dal 16 al 19 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Sara Alauia. A presto! Grazie, a presto, vi aspettiamo! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.